al razzismo, al sessismo, a diversi aspetti in cui il conflitto si manifesta nella nostra società. In particolare, negli ultimi mesi c'è stato, fra le tante cose accadute, c'è stato un episodio che ci ha fatto riflettere su come, da un lato per fortuna, dall'altro purtroppo, direi, la letteratura oggi, seppure una letteratura di nicchia, piccola, come quella che cerchiamo di portare avanti noi, è riuscita a interpretare, a raccontare meglio la realtà piuttosto che la politica, anche quando si tratta di politica militante. E mi riferisco al 15 ottobre, in particolar modo al dopo 15 ottobre, quando, con tutte le liti, discussioni, problemi che ci sono state interne al movimento articolato e variegato che è sceso in piazza in quella fatidica giornata a Roma, come molti e molte di voi penso ricorderanno, le polemiche che si sono succedute sono state tantissime, però c'è stato, come dire, poco dibattito pubblico nei siti di movimento, nei siti dei sindacati di base, nei forum. Incredibilmente c'è stato più dibattito su alcuni blog, su alcuni forum, in particolare ricordo sul Giap, il blog degli scrittori di Wuming, o su quello della Lipperini, o su altri blog che si occupano di letteratura che hanno aperto al dibattito con coraggio, prendendosi sulle spalle come dire, un peso notevole, visto gli scontri che ci sono stati verbali dopo il 15 ottobre, e hanno cercato attraverso la letteratura di raccontare quella giornata. Ci sono stati diversi racconti orali in forma scritta che hanno circolato su questo blog, sui social network, su altri siti di letteratura dal basso, conflittuale, si sarebbe detto una volta. E per questo si è iniziato a ragionare sul rilanciare questa ipotesi di discutere del conflitto, di raccontarlo attraverso la parola scritta, non solo più in forma di volantini, documenti, comunicati che, io lo dico insomma con dispiacere, ahimè, purtroppo oggi vengono letti e discussi sempre meno, mentre magari a volte i racconti, romanzi riescono a raccontare episodi di realtà conflittuale quotidiana o non solo quotidiana, in forma più completa e complessa di quanto non riescano a farlo i documenti politici. Per cui abbiamo iniziato a ragionare sul fare proprio un piccolo convegno, un incontro fra diversi compagni e compagne, studenti, persone che scrivono o che lavorano attorno al mondo della scrittura, delle riviste letterarie, e vedere se si poteva in qualche misura raccordarci e vedere come la letteratura realmente possa raccontare il conflitto di questi giorni. Sì, infatti noi la cosa che ci è piaciuta è andare a costruire, essere riusciti a costruire questa giornata insieme, studenti e appunto scrittori. E come hai detto tu, tutto un po' è nato dall'esigenza di prendere parola in modo appunto da raccontare quello che sentiamo durante i momenti appunto di conflitto in questo paese, che spesso non solo appunto come dicevi tu, trovano poco spazio negli ambiti di movimento, ma soprattutto vengono strumentalizzati quei momenti dai media. E facciamo una piccola pausa, andiamo a sentirci una canzone di Pino Masi, Prendiamoci la città, e poi spiegheremo perché oggi cerchiamo anche di stiamo mandando questo tipo di canzoni. Questa nostra lotta è la lotta di chi

Appunto, il contest letterario è stato un modo per appunto invitare gli altri a nel modo più orizzontale possibile a esprimersi su un argomento come il conflitto, che a volte è visto come qualcosa di negativo, e parlare di conflitto è anche un modo per uscire da questa retorica che il conflitto è una cosa negativa, ma uscire anche dalla retorica della pace sociale. Quindi non bisogna ribellarsi a quello che ci succede attorno. E quindi abbiamo invitato le persone, gli studenti, a parlare, a esprimersi e non farsi, appunto, non essere sempre passivi nell'appunto farsi raccontare quello che succede da chi appunto strumentalmente usa i giornali, i telegiornali o anche altri modi per raccontare strumentalmente quello che ci succede intorno. Ed è molto interessante il fatto che molte persone hanno partecipato, cioè hanno scritto ma non solo appunto racconti, ma anche filastrocche, poesie e quant'altro, per appunto usare la narrazione come modo di espressione, senza appunto nessuna paura, andando a soprattutto a narrare in prima persona con quello che ha vissuto quella determinata persona. Adesso voglio chiedere appunto a Marco come lui arriva quando scrive dei racconti e anche sulla rivista o i libri che scrive, su come arriva a scrivere anche in modo, cioè le emozioni che prova che gli danno il via per cominciare a scrivere dei racconti, perché ti succede e come ci arrivi. Beh, allora, come ogni scrittore racconta sempre di sé, insomma, ho sempre avuto un sacco di cose nel cassetto e sono state lì per tantissimo tempo, e vabbè, questo è un classico luogo comune che riproduco alla grande. I racconti che scrivo, alcuni pubblicati in un libro, altri che scrivo sulla rivista, altri che metto sul blog, la maggior parte sono racconti di conflitto, insomma, conflitto reale, realmente accaduto, piccole storie di quartiere, di periferia, di scontro politico, di scontri con la polizia o con i fascisti, per lo più accaduti negli anni 90. È stata un po' una mia precisa scelta decidere di raccontare una serie di cose perché sono state piuttosto dimenticate. Io dico sempre che, insomma, degli anni 70 si è scritto tantissimo, forse ancora poco, però comunque la letteratura, oltre che i saggi politici e di storia, sono tanti. Anche degli anni 80 si è scritto molto, c'è una letteratura piuttosto ampia. Da Genova in poi, con l'esplosione del mediattivismo, la parola scritta è stata importante perché si sono moltiplicati blog, siti, però soprattutto anche film, video, autoprodotti hanno raccontato quel movimento e i movimenti successivi. Tutto un decennio degli anni 90, e ne parliamo spesso con una serie di compagni e compagne che scrivono, che hanno vissuto quel decennio, sono poco raccontati, insomma, sono soprattutto raccontate poco le piccole storie, per lo più di sconfitte. Insomma, negli anni 90 il movimento, quello che ne resta, l'area politica, insomma, a cui faccio riferimento in quegli anni, insomma, ha perso quasi sempre. E la cosa peggiore non è solo che ha perso, che è stata abbastanza dimenticata, per cui per me scrivere, proprio potrei dire mille motivi, il motivo principale è che in qualche misura non voglio che vengano dimenticate quelle sconfitte, anche quelle più piccole, quelle più brutte, quelle più marginali, quelle di periferia, quelle di scazzi fra compagni e compagne, degli schiaffi presi, delle paure, della rabbia, non voglio che vengano dimenticate, non voglio che spariscano completamente, come spesso accade, insomma, come è accaduto per altre epoche storie. Per cui il mio desiderio principale quando scrivo è quello, insomma, è non farle dimenticare e in qualche misura usare la letteratura anche come una forma di vendetta. E adesso ci andiamo a sentire un'altra canzone. Pochi secondi. Piazza di Spagna, splendida giornata. Traffico fermo, la città ingorgata. E quanta gente, quanta che ce n'era. Cartelli in alto e tutti si gridava. E no alla scuola dei padroni. E via il governo, dimissioni. E mi guardavi tu con occhi stanchi, mentre eravamo ancora lì davanti. Ma se i sorrisi tuoi sembravano spenti, c'erano cose certo più importanti. E no alla scuola dei padroni, e via il governo, dimissioni. Un quarto avanti architettura, non c'era ancora ragione di aver paura. Ed eravamo veramente in tanti, e i poliziotti in faccia agli studenti. E no alla scuola dei padroni, e via il governo, dimissioni. Hanno impugnato i manganelli ed han picchiato come fanno sempre loro. E all'improvviso è poi successo un fatto nuovo, un fatto nuovo, un fatto nuovo. Non siamo scappati più, non siamo scappati più. Il primo marzo sì, me lo rammento, saremmo stati 1500. E caricava giù la polizia, ma gli studenti la cacciavano via. E no alla scuola dei padroni, e via il governo, dimissioni. E mi guardavi tu con occhi stanchi, ma c'erano cose certo più importanti. Ma qui che fai, ma vattene un po' via, non vedi arriva giù la polizia. E no alla scuola dei padroni, e via il governo, dimissioni. Le camionette, i celerini, ci hanno dispersi, presi molti e poi picchiati. Ma sia ben chiaro, e si sapeva, che non è vero, che non è finita. E allora, qualcuno ci potrebbe chiedere perché questa mattina abbiamo scelto di mandare appunto queste canzoni, queste ballate, le abbiamo nominate, perché abbiamo pensato che ci può essere un parallelismo tra quello che stiamo facendo noi appunto in questa iniziativa e questo tipo di canzoni che erano un mezzo appunto quelle che stiamo andando sono degli anni 70, 60-70, erano un mezzo appunto per raccontarsi tra compagni, ma anche per uno strumento per quelli che venivano dopo, per raccontarsi quello che succedeva. Infatti alcune canzoni che stiamo mandando sono proprio dei racconti di alcune manifestazioni, l'ultima Valle Giulia. Venivano appunto raccontati quella che era una manifestazione, quindi passo dopo passo quello che era successo, e quindi abbiamo pensato che ci può essere un parallelismo con la letteratura e il conflitto. Anche la letteratura, quindi la narrazione di alcuni episodi come abbiamo nominato prima il 15 ottobre, ma anche alcune manifestazioni della Notav, come viene raccontata dal Duca, o alcuni episodi come lo sgombero della scuola da Marco, questo tipo di narrazione è simile alle canzoni degli anni 60 e 70, dove appunto si tramanda e si cerca di comunicare tra compagni quello che si sente, quelle occasioni. Sì, cioè le canzoni di lotta degli anni 70 erano appunto canzoni popolari, ballate, che non solo raccontavano episodi del passato, ma spesso i cantautori come Gianfranco Manfredi e Pino Masi, per dire, insomma, due dei più famosi sicuramente interni al movimento di quegli anni, raccontavano il presente, raccontavano il conflitto, raccontavano quello che accadeva, seppure in maniera a volte enfatica e retorica, ma insomma era anche il frutto dei tempi e andava bene così, probabilmente raccontavano le occupazioni delle case, le manifestazioni degli studenti, le fabbriche in lotta, e lo raccontavano come poi in qualche misura hanno fatto gli instant book negli anni successivi. La letteratura negli anni 70 c'era, se uno fa una buona ricerca, insomma, si trovano racconti, romanzi brevi, alcuni di qualità, altri meno, alcuni possono piacere, altri no, che raccontavano la vita quotidiana, il conflitto, eccetera eccetera, ma soprattutto quel movimento è stato, a mio avviso, raccontato da queste canzoni. Successivamente il conflitto, il movimento, le lotte, le sconfitte sono state raccontate sempre meno, soprattutto negli anni 80, direi, insomma, anche se ci sono delle cose che raccontano gli anni 80, direi che soprattutto all'inizio degli anni 90, con l'esplosione del fenomeno musicale delle posse, c'è stato un nuovo modo di raccontare se stessi, il movimento, il conflitto, che però era un po' diverso dal raccontare il quotidiano, la lotta. Se andiamo a vedere i testi di quelle canzoni, erano non solo diverse nei contenuti agli anni 70, ma avevano proprio un orizzonte diverso. In tutto questo la letteratura era piuttosto assente, insomma, la scrittura del movimento di se stesso passava attraverso volantini, documenti, comunicati, ma non attraverso racconti. Questa cosa emerge con forza, a mio avviso, negli anni 2000, un po' perché esplodono blog, siti in cui si parla, si scrive, si tenta di fare letteratura dal basso, letteratura che racconta il conflitto, e un po' perché qualche misura la musica ha perso un po', purtroppo, terreno da questo punto di vista. Resistono alcune posse storiche come gli Assalti Frontali e i 99, però il circuito, rispetto a come era unitario, forte e conflittuale nei primi anni 90, si è, dal mio punto di vista, ovviamente solo un'opinione, si è piuttosto smarrito, disgregato, e a parte pochissimi gruppi, per cui quelli che ho citato, racconta sempre meno il conflitto. Oggi, da un po' di tempo, la letteratura prova a farlo, insomma, sia attraverso romanzi o racconti che raccontano del passato, insomma, mi viene da pensare a uno che devo sempre citare perché è un capolavoro, che è la Banda Bellini di Filopat, che racconta gli anni 70, il collettivo di quartiere, l'antifascismo, insomma, è uno dei tanti, ovviamente, però quello è importante. Oppure mi viene da pensare Asce di guerra di Wu Ming, in cui si racconta il conflitto dei primi anni 2000, con le contraddizioni, le difficoltà, le sconfitte, i cambiamenti, e si racconta il conflitto di 50 anni prima attraverso la storia di un ragazzino che aveva fatto la staffetta nella guerra partigiana e poi era andato a combattere con i movimenti di liberazione nazionale in Indocina. Per cui quello è sicuramente uno dei più famosi, insomma. Poi sono venute fuori altre cose che cercano di raccontare anche il conflitto quotidiano, insomma, magari non hanno chissà quale valore letterario, però provano a trovare un'altra strada. Adesso ci andremo a sentire una canzone di Enzo Del Re riguardante appunto una lotta del 68 dei braccianti di Avola. Scusate. Avola, avola, basta, così non si può andare avanti, ci strozzano. Ai carabinieri, tosse, tosse, tosse, riprende la follia, ci vengono addosso, avola, avola, avola, per terra 3 chili di fossoli, di proiettili. 1, 2, stecchiti, arrivano i telegrammi del ministro, spiaciuti di disgrazia, stop, condoglianze, arrivano 500.000 lire a testa, 10.000 lire al chilo, 10.000 lire al chilo più che il filetto ci hanno pagato. Scioperano in tutta Italia, i sindacati hanno indetto uno sciopero, 20 minuti, senza nemmeno uscire dalla fabbrica. Grazie compagni, grazie per il gesto e la solidarietà. Grazie compagni. E questa era la canzone di Enzo Del Re, come abbiamo detto prima, dal titolo Avola del 68. E, appunto dalle discussioni che ci hanno portato alla costruzione di questa iniziativa insieme agli scrittori, emerge appunto un dato che è quello della partecipazione. Già appunto da quando sono iniziate le lotte studentesche all'università, le ultime, a partire appunto dal 2008, quello che differenziava rispetto a prima questo tipo di movimento, che era l'onda, era appunto il livello di partecipazione. C'era appunto un rifiuto della rappresentanza in a qualsiasi livello, anche a livello appunto universitario, per chi appunto si è vissuto quelle lotte, emergeva appunto il bisogno di una partecipazione diversa, dove appunto quello che era importante era l'orizzontalità dei rapporti tra gli studenti, anche dei mezzi che si usavano per appunto andare in piazza o fare delle richieste. E appunto siamo arrivati invece nel 2011, dopo anni, si può dire, sì, di lotte contro il DDL Gelmini, dove adesso non facciamo più appunto richieste, non diciamo no alla riforma perché appunto è passata, purtroppo per noi, ma appunto andiamo a riappropriarci di quello di cui abbiamo bisogno, e pensiamo appunto che i percorsi all'interno dell'università debbano essere questi. Sì, e però continuare rimarcare il fatto che è importante mantenere appunto l'orizzontalità, e quindi permettere la partecipazione a tutti gli studenti in modo quotidianamente, non solamente appunto in episodi o in delle scadenze particolari, ma che ci sia una mobilitazione continua, quotidiana, dove si permette la partecipazione. La letteratura, la narrazione entra anche in questo. La narrazione serve appunto per partecipare in modo orizzontale alla discussione, può essere un modo per confrontarsi e per permettere appunto una partecipazione diversa, una partecipazione dove non c'è appunto un gruppo che scrive dei volantini, dei documenti, sì, ci deve essere anche quello, ma parallelamente un modo di partecipare che rimanga orizzontale, quindi che faccia esprimere tutti, e questo può passare anche dalla letteratura e dalla narrazione, che poi è anche il perché abbiamo costruito questa iniziativa, e speriamo appunto che si possa dare anche un seguito a queste giornate, cercando di mantenere questo tipo di pratica della narrazione anche dopo le iniziative. Sì, a questo proposito volevo ricordare una cosa che ultimamente dico sempre, quindi chi l'ha già sentita si annoierà, pazienza. La letteratura, quando prova a indagare e a raccontare la realtà senza pregiudizi, senza le mani davanti agli occhi, può raccontare in forma concreta le contraddizioni, le paure, le sconfitte, laddove spesso, ahimè, la politica, soprattutto per come il sottoscritto ha imparato a farla, non ci riesce, poiché spesso la retorica riesce sempre e comunque a prendere il sopravvento. Quando la letteratura diventa una forma di espressione di un individuo o di una collettività di persone, riesce a raccontare, appunto, come ho detto, le sconfitte, le contraddizioni, gli errori, in qualche modo anche ad evidenziare in maniera autocritica percorsi, passaggi fatti male. E forse non c'entra nulla, dirà qualcuno, ma mi va sempre di fare questo esempio di letteratura che mette proprio, come dire, ti fa venire il sangue sulle labbra. Italo Calvino, che ovviamente non era letteratura dal basso, insomma, perché è stato un grande intellettuale, uno studioso, per cui non potremmo definirlo certo ragazzino di periferia che si è messo a scrivere, però è uno che, insomma, ha fatto qualcosa, fra cui la Resistenza. E il suo primo libro, quello che rimane a mio avviso forse il più bello in assoluto, che è Il sentiero dei nidi di ragno, che lui scrisse nel 46, quindi di getto, era appena finita la Resistenza, la guerra, eccetera eccetera, e fu pubblicato nel 47. Io questa cosa la racconto a modo mio, insomma, qualche storico, qualche critico letterario potrebbe tranquillamente muovere delle critiche al modo in cui io racconto questa cosa, però più o meno le cose si dice che sono andate così. Il Partito Comunista, in primis Togliatti, in qualche misura interagì con Calvino, o chiedendo direttamente o indirettamente, affinché scrivesse il libro della Resistenza di montagna, quella sotto la neve, quella dei partigiani abbandonati dal programma Alexander, quella dove i partigiani comunisti e anarchici non ricevevano i lanci degli alleati angloamericani, che andavano invece ai badogliani, ai moderati, quella resistenza, sì, quella sì, estremamente proletaria, operaia e contadina. Quella resistenza difficile da raccontare, insomma, il PC voleva in qualche misura che Calvino scrivesse un libro altisonante, retorico, che raccontasse l'eroismo tout court delle Brigate Garibaldi e della Resistenza comunista. E ovviamente Calvino ha scritto Il sentiero dei nidi di ragno, che è tutt'altro, che ha dei protagonisti che sono, dirla come Sergio Leone, sono brutti, sporchi e cattivi, sono pieni di contraddizione, sono molti poco politicizzati, sono in lotta fra loro a volte, gli egoismi e gli individualismi escono fuori, ci sono le brutture dell'animo umano. Ma quello che dice Calvino è, con tutte le loro contraddizioni, quel manipolo di combattenti era riuscito a capire da che parte stare e si era schierato dalla parte della resistenza, aveva combattuto, era morta, era stata ferita, sconfitta e alla fine c'era stato il 25 aprile. Quello fa Calvino, quello fa la letteratura subito dopo la resistenza, niente retorica altisonante, niente letteratura da socialismo reale. Calvino racconta la resistenza come l'ha vissuta, all'interno delle brigate in montagna, con le paure e non col coraggio eroico sempre e comunque, no, racconta la paura di questa brigata di montagna. Ecco, quello per me rimane un modo di raccontare il conflitto e di fare buona letteratura, passatemi il termine. Ovviamente, non so, non mi fraintendete, non mi sto paragonando a Calvino, ma neanche in mille vite, insomma. Quello è solo, tuttora rimane un buon esempio di fare letteratura e raccontare il conflitto. Infatti una cosa adesso mi hai fatto diciamo suscitare una riflessione e, una cosa che dovremmo superare, penso anche i compagni, no, è pensare che ci siano delle ricette, no, che in qualche modo possiamo darci delle soluzioni a lungo termine, pensare che in qualche modo possano essere vincenti sempre. Ci sono degli sbagli e soprattutto in questo periodo io penso che siamo in una fase di sperimentazione, no? Quindi la narrazione può essere anche un modo per discutere sui limiti, come non voglio paragonare ovviamente la lotta studentesca di adesso a la resistenza di cui parlava Italo Calvino, però la letteratura, quindi anche la narrazione, può anche essere un modo per ristabilire, no, l'umanità che c'è anche nelle lotte, nel lavoro politico, dei gruppi, dei collettivi, no? Nel senso che siamo umani, sbagliamo, in questo momento stiamo sperimentando dei modi appunto per trovare un'alternativa all'esistente, e la narrazione è un modo anche per raccontare difetti dove si sbaglia, ma anche dove ci sono delle vittorie, dove in qualche modo andiamo a incidere e a radicarci nei territori. Non ci sono appunto lotte perfette o percorsi perfetti, ma appunto sono, appunto perché siamo umani, ci sono, nei percorsi ci sono sempre degli sbagli e i progetti, cioè questo è un momento di sperimentazione dove non ci sono leader, non ci sono, per questo è importante la partecipazione orizzontale che viene permessa anche dalla narrazione, perché appunto non c'è una vera e propria avanguardia, se si può parlare di questo, se si può dire così, ma uno scambio, un chiedere agli studenti, in questo caso per l'università, ma penso che si possa anche riproporre nel resto del territorio, che cosa e come soprattutto si può arrivare ad ottenere qualcosa nell'università, a occupare le case e quant'altro. Quindi è un periodo di sperimentazione e soprattutto di condivisione con il resto delle persone di quello che si fa. È cominciata di nuovo la caccia alle streghe. I padroni, il governo, la stampa, la televisione. In ogni scontento si vede uno sporco cinese. Uniamoci tutti a difendere le istituzioni. Ma oggi ho visto nel corteo tante facce sorridenti, le compagni hanno impugnato bastoni dei cartelli ed ho visto le auto blindo rovesciate poi bruciate, tanti e tanti poliziotti con le teste fracassate. Oggi ho visto nel corteo tante facce sorridenti, le compagne 15 anni, gli operai con gli studenti, il potere agli operai, dal sistema del padrone, sempre uniti vinceremo, viva la rivoluzione. Quando poi le camionette hanno fatto i caroselli, compagne hanno impugnato i bastoni dei cartelli ed ho visto le auto blindo rovesciate poi bruciate, tanti e tanti poliziotti con le teste fracassate. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è esitato questa volta lotterà con noi domani. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è esitato questa volta lotterà con noi domani. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è esitato. Bene, io penso che abbiamo parlato abbastanza di questa di questo argomento. Ribadiamo l'appuntamento del 29 febbraio nella facoltà di sociologia, dove parleremo di letteratura e conflitto. Avremo come ospiti Marco, che è stato qui con noi stamattina, Duca, Filopat, e avremo anche le autrici e gli autori della rivista L'Aspro, la Balzerani, e avremo anche un'intervista a Valerio Evangelisti, che faremo in questi giorni e riproporremo durante quella giornata. Ricordo anche che ci sarà Alessandra Mitrano, scrittrice, ci sarà Laura Schettini, storica e scrittrice, ci sarà Marco De Rose, autore del libro sul il mondo ultras, e appunto scrittori e scrittrici della rivista L'Aspro, e Barbara Balzerani, che ha scritto diversi libri, che verrà a raccontarci il suo punto di vista su letteratura e conflitto. Ringraziamo Marco e ci vediamo il 29 a Sociologia. Grazie. Alle ore 17. Questa mattina davanti ai cancelli sono arrivati 30 fascisti, erano armati di bombe e coltelli, questi di Borghi sono gli squadristi. Han cominciato tirando sassi contro i compagni di un capannello, alle proteste han risposto sparando, due ne han feriti con il coltello. Noi operai gli siamo corsi dietro, ma quei vigliacchi sono fuggiti approfittando della confusione mentre portiamo in salvo i feriti. Subito dopo la vile aggressione, ecco arrivare due capi fascisti, van con la borsa dal porco padrone a prender la paga dei loro squadristi. Li abbiamo presto riconosciuti, uno è del piccolo quell'assassino e l'altro è Micolo, capo fascista, torturatore repubblichino. Dentro la borsa coi passaporti hanno una scura e bene affilata, questa è la prova che i due compari la sanno lunga su com'è andata. Li abbiamo fatto alzare le mani, li abbiamo messo al collo un cartello con sovrascritto siamo fascisti, facciamo politica con il coltello. Fino in città, mentre tremavano per la vergogna, li abbiamo portati in testa al corteo e tutta Trento li ha messi alla gogna. Ma per stavolta vi è andata bene, perché alla fine della passeggiata quella gran forca che meritate non ce l'avete ancora trovata. Quella gran forca dovremo farla ben restare. Allora, vi chiedo 5 minuti di attenzione per un appello importante. Abbiamo ricevuto una telefonata da Carla Verbano, che conoscerete tutti e tutti ovviamente, e come molti forse sapranno, Carla si trova da 11 giorni, si trova ricoverata in una clinica per un intervento che ha dovuto fare, una piccola operazione. E vi chiedo di scrivere un attimo, di prestare attenzione, perché Carla c'è bisogno di donare del sangue. Carla Verbano si trova ricoverata in Villa Tiberia, che si è sita nel quartiere Talenti, precisamente in via Emilio Praga numero 26. Bisogna andare lì e donare del sangue a nome per Rina Zappelli. Qualsiasi gruppo sanguigno va bene. Ve lo ripeto e poi magari in radio si dirà più volte. Allora, bisogna donare il sangue per Rina Zappelli, Villa Tiberia, che si trova nel quartiere Talenti, precisamente in via Emilio Praga numero 26. Per ulteriori informazioni potete magari chiamare in radio, potete contattare il sottoscritto via mail, su Twitter, Facebook, dove vi pare, o magari lo troverete scritto anche nel blog di Carla e sulla sua pagina Facebook. Lo ripeto ancora, allora bisogna andare a Villa Tiberia per donare del sangue di qualsiasi gruppo sanguigno, non importa. Villa Tiberia si trova nel quartiere Talenti in via Emilio Praga numero 26 per Rina Zappelli, ovvero Carla Verbano. Grazie a tutte e tutti. 2009, toujours d'actualité. On avance en terrain miné en proclamant la légitimité de la lutte armée par tous les moyens nécessaires, frères de nos quartiers populaires. L'autodéfense est un droit, une posture inébranlable, au même titre que l'amour de la liberté. L'ambiance électrique est palpable, noyau, cellule.